Sono l'uomo che volevo sposare, la troia che non ti fa pagare. Un rumore in sottofondo mentre ti appoggio ubriaco al bancone. Succube dell'attenzione, attenta solo al dolore. Oggetto di desiderio, ma che alla fine nessuno vuole. Di scelte ne ho fatte che mi hanno sporcato di sangue il colletto. Lo lavo con acqua di rose e preghiere per potermi salvare all'inferno. Non chiedo di più di un amore che accolga le parti di me che ancora non sanno guarire da sole come le cicatrici al cuore. Immaginate prima che riveda il sole. Sono la madre di chi mi ha partorita, la stessa che poi l'ha ferita per ritrovarmi a 15 anni con il mio primo pensiero suicida. Sono amara per poche persone, amata da chi non conosco e baratto anche il pudore in cambio di qualche mera sensazione. Di scelte ne ho fatte che mi hanno sporcato di sangue il colletto. Lo lavo con acqua di rose e preghiere per potermi salvare all'inferno. Non chiedo di più di un amore che accolga le parti di me che ancora non sanno guarire da sole come le cicatrici al cuore. Rimarginate prima che riveda il sole. Sole.